Domenica scorsa, come avrete senz'altro capito, non ero in diretta. Avevo affidato un paio di registrazioni alla CAM e me ne ero andato alla Marcia Perugia Assisi. Una decisione, ve lo assicuro, piuttosto sofferta, e non perché dubitassi della capacità dell'amico Felice di reggere la trasmissione da solo senza incertezze né sollecismi, e i miei dubbi erano gli stessi di tantissimi altri. Da un lato ci si presentava l'occasione di far capire a chi di dovere che in questo paese non abbiamo perso tutti la testa e che esistono ancora delle persone normali convinte che non si risolve il problema del terrorismo internazionale con i bombardamenti e tappeto, e dall'altro incombeva la fastidiosa consapevolezza del fatto che quell'iniziativa un po' troppo istituzionalizzata avrebbe partecipato per opportunismo una quantità di figuri sulla cui dedizione alla causa della pace era lecito nutrire ogni dubbio e con i quali nessun pacifista ragionevole avrebbe desiderato venir confuso nemmeno da morto. Alla fine, come tantissimi altri, ho scelto il primo corno del dilemma e non ho avuto motivo di pentirmene. Di opportunisti sul percorso Perugia-Assisi ce ne sono visti parecchi, ma nessuno è riuscito a mettere il cappello sulla manifestazione e questo basta. È stata una faticaccia farsi quella camminata sotto il sole rovente in una situazione di disorganizzazione pazzesca tra la manifesta ostilità dei residenti e l'indifferenza infastidita delle strutture pubbliche e private, ma ce l'abbiamo fatta e speriamo che qualcosa sia servito. Io vi dirò, ho concluso l'impresa malconcio sul piano fisico, ma abbastanza soddisfatto. E non soltanto perché ero riuscito alla mia età ad arrivare da Ponte San Giovanni, che è subito dopo Perugia, a Santa Maria degli Angeli, che è un po' prima d'Assisi, che non ha fatto uno sforzo da poco, ma perché per strada mi era balenato il sospetto che forse, chissà, da quell'assurda macedonia di militanti sciupacchiati, famigliole festose, volontari di vario tipo, boy scout, penitenti, anarchici, e donne in nero e chissà che altro, avrebbe potuto uscire anche qualcosa di politicamente imprevisto. E di un po' di imprevisto in questa età di assoluta bipartigiana prevedibilità al governo e all'opposizione sentivo e continuo a sentire davvero parecchio bisogno. E poi ci si poteva anche divertire. Era divertente starsene lì, pur bloccato com'ero tra un gruppo di curdi particolarmente chiassosi e un cordone di inesausti sbandieratori di Rifondazione, a guardare quella massa variegata di uomini e donne che marciavano, cantavano, danzavano, estraevano il telefonino, formavano un numero, riponevano l'apparecchio scuotendo la testa, scandivano slogan, intonavano canzoni, riprendevano il telefonino, rifacevano il numero, non ottenevano evidentemente risposta, si guardavano attorno con aria perplessa, sventolavano le loro bandiere, ripescavano l'apparecchio, rifacevano un numero e così via, chilometro dopo chilometro. Per uno studioso di problemi della comunicazione era un'occasione straordinaria di analisi e studio sul campo. Già, perché ai protagonisti non umani della marcia, al telefono cellulare è toccata una posizione di assoluto primo piano. Ed era ovvio, d'altronde, a un'iniziativa del genere si arriva per forza di cose in gruppi dispersi ma desiderosi di incontrarsi. Gli amici giungono ciascuno per conto suo, con diversi mezzi di trasporto e in diversi orari a seconda degli impegni e delle opportunità. Come si fa a ritrovarsi allora? Ci si dà un colpo di telefonino. I responsabili dei vari gruppi hanno il problema di ritrovare a marcia finita i pullman che riporteranno i loro pupilli a destinazione. Non sanno dove saranno posteggiati, perché nessuno si è dato la pena di organizzare un sistema nazionale di parcheggi, ma non se ne preoccupano perché potranno sempre chiamare l'autista al telefonino. A Doralice che viene da Milano con le donne in nero, non dispiacerebbe incontrare dopo tanto tempo l'amica Fiordiligi, che partecipa con il sindacato scuola di Napoli. Ed entrambe infatti si sono impegnate a cercarsi con il telefonino. I molti minorenni presenti alla marcia, dando al termine il significato corrente di giovane d'età inferiore ai 35 anni, sono dotati di genitori normalmente ansiosi, che non resistendo all'idea di passare un giorno intero senza notizie delle loro creature, confidano nel telefonino per tenersi in assiduo collegamento. Di telefonino sono provvisti i giornalisti presenti, compreso lo staff di Radio Popolare, e i politici che si aspettano di esserne adeguatamente intervistati. Insomma, su 300.000 partecipanti si può ragionevolmente calcolare che il numero di dispositivi di telefonia mobile presenti si aggiri più o meno sulle 200.000 unità. Il risultato è noto. Quando tutti i detentori di cellulare hanno lanciato al cielo il loro appello elettronico, il sistema è andato in tilt. L'area interessata in tempi normali sopporta una popolazione di non più di 150.000 abitanti e non poteva essere dotata di antenne e punti radio in grado di reggere di punto in bianco un'impennata del traffico di quel livello. A destinazione sarà arrivata con l'aiuto della fortuna una chiamata su mille. Gli altri sono restati a bocca asciutta, del tutto impossibilitati a collegarsi coi propri destinatari. Doralice non ha mai incontrato Fiore di Ligi. I militanti del circolo Arci di Piedimulera sono stati costretti a vagare per ore nella notte insieme a quelli della cellula anarcosindacalista di Pordenone alla disperata ricerca ciascuno del proprio pullman. I genitori dei minorenni sono restati senza notizie della prole fino all'alba di lunedì. Più in generale, tutta una rete prevista di incontri, coincidenze e sinergie è andata clamorosamente per aria e senza alcun intervento malevolo dall'esterno, i molti telefoninatori delusi che si dovevano di essere stati oscurati da un potere pavido e arrogante non si rendevano conto di essersi oscurati da sé. In realtà, il fatto che la marcia abbia avuto successo nonostante questa debacle dei sistemi di comunicazione individuale può essere considerata, se volete, una prova dell'efficacia della provvidenza o, se preferite, la dimostrazione del fatto che la maggior parte dei messaggi che si affidano a quegli strumenti sono molto meno rilevanti di quanto comunemente si creda. Io che sulla provvidenza non sono fiduciosissimo e sui telefonini meno, tendo naturalmente a condividere quest'ultima ipotesi. In fondo, con la possibile eccezione di poche categorie professionali specializzate come i giornalisti radiofonici, il telefonino è un tipico dispensatore di servizi sostanzialmente superflui. Non esistono reali necessità, salvo quelle che promanano dalla tenebra ansiosa della nostra psiche, di essere rintracciabili in permanenza da chiunque, di poter a nostra volta rintracciare chiunque ovunque noi siamo. E i vari impegni della vita associata infatti si possono assumere benissimo senza disporre di quell'apparato con tutti i suoi annessi e connessi sociologici, economici e tecnologici. Certo, le comodità tecnologiche, pur superflue che siano, restano una gran bella cosa, ma le tecnologie, come avrebbe detto probabilmente Guglielmo da Occam, che in fondo era francescano e da quelle parti non si sarebbe sentito a disagio, le tecnologie non vanno moltiplicate preter necessitatem. Chi è attrezzato per la ricerca del superfluo talvolta può trovarsi inopinatamente in braghe di tela, nel senso che non riesce a ottenere neanche l'essenziale. E quel che è accaduto domenica scorsa nelle dolci colline dell'Umbria ne è una prova palmare, e probabilmente se i vari appuntamenti e i vari impegni fossero stati assunti secondo le modalità in vigore nell'era precellulare sarebbero andati in buona parte a miglior fine. Se Doralice si fosse accordata con Fior di Ligi per incontrarsi alle ore tante sotto il ponte di Ospedaluzzo, se i vari capigruppo avessero concordato con i rispettivi autisti un appuntamento alla tal pietra miliare o all'uscita della tal frazione, e molte complicazioni si sarebbero evitate. La troppa fiducia in quegli strumenti, unita a una scarsa informazione sui loro limiti tecnologici e sulle loro modalità d'uso, si è clamorosamente ritorta su chi la nutriva e al tempo stesso se ne pasceva. Niente di grave naturalmente, e con un po' di fatica in più è andato tutto bene, ma tra le molte stranezze di questi tempi scombinati, quella di dover pagare a caro prezzo degli strumenti destinati in ultima analisi a complicarci la vita non è certamente la minore.